Ho bisogno di silenzio. Come te, che legge col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta. Invece, ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio. Sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno come me di silenzio.